Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, questa sera parliamo di un elemento fondamentale della nostra vita economica e sociale. Parliamo di energia, energia che ci dà tanti problemi ma ci dà soprattutto tante opportunità. E lo facciamo sulla base di un libro, Resource, il gas naturale nel futuro dell'energia, un libro edito da Rizzoli per conto della SNAM, e proprio della SNAM parla questo libro. Ovviamente del gas naturale e della SNAM. La SNAM è la società che in Italia commercializza il gas naturale e che compie 75 anni. Parliamo di questi temi con Daniela Viglione. Buonasera Daniela Viglione. Buonasera. Daniela Viglione è coautrice di questo libro insieme al giornalista e storico Paolo Mieri ed è economista, esperta di energia, e ripercorre un po' nel suo intervento e insieme agli altri interventi che compongono questo libro, per esempio quello di Alberto Clò, uno dei maggiori esperti italiani di energia, che peraltro abbiamo avuto ospite in questo nostro programma nelle scorse settimane con il suo ultimo libro dedicato a energia e ambiente. Ecco, appunto, in questo libro molti interventi percorrono un po' i temi essenziali dell'energia sotto i suoi vari aspetti: l'approvvigionamento, i costi, le nuove tecnologie, le potenzialità e soprattutto il futuro. Ecco, Daniela Viglione, perché il gas naturale è un elemento importante, direi fondamentale, della politica energetica in questo momento? Beh, innanzitutto perché il gas naturale è una fonte altamente disponibile, è stata recentemente oggetto negli ultimi decenni di grandi scoperte, basta pensare, va bene, all'Iran, al Qatar, all'Australia, al Mozambico, al grandissimo giacimento che è stato scoperto nel bacino del Levante tra Cipro, Israele e l'Egitto, e quindi è una fonte ampiamente disponibile, ma questo è solo uno dei motivi. Il secondo è il suo altissimo valore ambientale. Il gas naturale è un gas, è una fonte che ha poco impatto ambientale, assolutamente minore rispetto alle altre fonti fossili, ed è quindi uno strumento fondamentale nelle politiche di rispetto del clima e di difesa del clima. Poi è oggetto di grandi innovazioni tecnologiche, sia sul lato dei trasporti, perché si sta imponendo in tutto il mondo il gas naturale liquefatto, il gas viene liquefatto portandolo a meno 600 gradi di temperatura, si riduce enormemente il suo volume, viene messo su delle navi e quindi trasportato nei vari mercati di consumo. E poi ci sono anche grandi innovazioni proprio nei sistemi anche tradizionali dei gasdotti. E infine è molto flessibile negli impieghi, il gas può alimentare il trasporto, pensiamo all'Italia, tra l'altro è un paese leader nelle auto alimentate a gas, ma con le nuove innovazioni del biometano, per esempio, il gas è un prodotto rinnovabile, una fonte rinnovabile, né più né meno come quelle famose fonti rinnovabili del solare o dell'eolico, solo che è molto più programmabile ed è molto più flessibile. E quindi per esempio dai residui urbani, dai residui dell'agricoltura, si ottiene del gas che viene immesso in rete, quindi una materia prima rinnovabile. Ecco, in questa prospettiva del libro poi ci sono poi nelle ultime pagine alcuni esempi di autobus, di mezzi di trasporto, di grandi navi che sono mosse a gas, quindi noi abbiamo un rapporto con il gas quotidiano, magari non ce ne accorgiamo, lo usiamo tutti i giorni nelle nostre cucine o nei nostri impianti di riscaldamento, però ecco, il gas entra a far parte della dotazione energetica sotto molti aspetti. Diciamo, quanta parte è il consumo privato e quanta parte del gas che si utilizza in Italia invece è destinato alle grandi centrali elettriche o alle altre attività? Molta parte è destinato alla produzione elettrica e larga parte anche naturalmente alle grandi fabbriche, ma poi soprattutto anche al sistema delle piccole e medie imprese, oltre che naturalmente, come le dicevo, nelle grandi filiere del biometano. Pensi che ci sono circa 12.000 dipendenti, 1.200 impianti, e si pensa che in capo a un paio di decenni circa il 15-20% del gas che sarà consumato verrà da lì. E poi naturalmente c'è tutto il gas dei consumi, chiamiamoli domestici, anche lì ci sono delle grandi innovazioni nella climatizzazione, quindi sia il riscaldamento riscaldamento che raffreddamento degli edifici. È una parte quella domestica molto rilevante ed è stata una parte proprio importante anche negli esordi della distribuzione del gas. Quando il gas arrivava nelle case naturalmente non c'era più bisogno di avere i depositi, le bombole, poi si pagava quello che si consumava. Quando arrivava il gas negli anni 50 e 60 si facevano le feste in piazza ed era un elemento di grandissimo sviluppo e della vita civile, della vita sociale. Il gas ha alimentato la produzione del pane pulita, della pasta essiccata, delle vetrerie di Murano, piuttosto che dell'industria ora fa italiana, perché è pulito ed è regolabile, va a consumo. Ecco, lei diceva nel suo primo intervento che è anche parte delle energie rinnovabili, ma il gas viene estratto e si consuma. Come può essere parte della politica che incentiva appunto e che sviluppa le energie rinnovabili? Ma perché il gas non si estrae soltanto dai giacimenti, il gas in questi nostri decenni di grandi innovazioni viene prodotto attraverso il trattamento per esempio dei rifiuti dell'agricoltura e dei rifiuti delle città. Proprio c'è un esempio con una bella foto nel libro di un collegamento fatto in Lombardia in cui 6 milioni di cittadini, i rifiuti urbani di 6 milioni di cittadini lombardi producono un gas che viene immesso in rete, gas pulito, e quello è gas rinnovabile, perché se noi con un doppio vantaggio naturalmente, che eliminiamo dei rifiuti, li trasformiamo in un'energia pulita che serve a sua volta alimentare consumi privati, fabbriche, tecnologie e mobilità. I treni, gli aerei, le navi, persino i razzi, adesso stanno studiando che vanno a gas, ma comunque soprattutto le auto e i camion. E l'alimentazione a gas lì non è in competizione con l'auto elettrica, è competizione con l'auto a diesel, col diesel, con la benzina, e perché è molto meno inquinante. Ecco, nella prospettiva del mercato, nella prospettiva dell'economia, la Snam è indubbiamente la più grande società che si occupa di questi temi, che si occupa appunto di questo business, però siamo alla presenza di un mercato in cui c'è una competizione all'interno del mercato del gas in Italia, delle sue applicazioni, quindi anche questo in fondo ha fatto sì che si sviluppasse una competizione positiva che riducesse i costi e che facesse anche di elementi come il rispetto dell'ambiente un elemento competitivo. Daniela Viglione. Lei ha perfettamente ragione, tra l'altro questo è proprio profondamente nella cultura della Snam e della sua storia, lo sottolinea bene Alberto Clò nel suo breve saggio e anche Paolo Mieri nella sua introduzione. La Snam ha sempre avuto una cultura antimonopolistica, pur essendo di gran lunga la più grande società del gas, ha favorito la nascita di oltre 700 municipalizzate, e questa cultura del lavorare insieme, del condividere le innovazioni, le tecnologie, le esperienze, è fortemente portata avanti da Marco Alverà e da Carlo Malacarne, che sono attualmente l'amministratore delegato e presidente della Snam, che stanno creando delle alleanze molto forti con i loro fornitori italiani, che sono piccole e medie imprese. Il 95% dei 2000 fornitori certificati di Snam sono piccole e medie imprese italiane, che lavorano con i tecnologi, con gli ingegneri, con i tecnici della Snam insieme alla Snam vanno all'estero, perché la Snam poi è la più grande operatore delle infrastrutture del gas d'Europa ed è un protagonista del progetto della Energy Union, dei grandi collegamenti, di far diventare l'Italia un hub del gas nel Mediterraneo. E quindi è un lavorare insieme che sta nell'identità della Snam e che adesso viene riproposta, ad esempio Alverà ha dato luogo proprio nel segno di una cultura cultura storica che c'è in SNAM fin dagli inizi, a una fondazione SNAM, la quale fondazione SNAM farà con i territori dei progetti condivisi di sviluppo in materia ambientale, in materia sociale, a tutela e valorizzazione dei territori. Ecco, per concludere, Daniela Viglione, se guardiamo al futuro, il titolo tra l'altro di questo libro è proprio il gas naturale nel futuro dell'energia, si parla spesso di un rischio degli approvvigionamenti, di un rischio appunto di esaurimento delle stesse fonti energetiche, degli stessi pozzi di petrolio. Guardando al futuro, il gas naturale ci dà qualche sicurezza? Assolutamente, prima di tutto perché, come le dicevo, ci sono state enormi scoperte di giacimenti di gas in Africa, in Australia, in America Latina e anche nel bacino del Levante e poi nell'area del Caspio naturalmente, in Azerbaijan, da cui parte questo grande gasdotto TANAP che poi arriva fino all'Italia. E quindi diciamo c'è ampia disponibilità di gas e ampie riserve. E poi il gas di cui parliamo oggi e che sta davanti a noi è un gas, come le dicevo, rinnovabile, è un gas che per esempio può utilizzare e trasformare di nuovo in un gas sintetico l'energia elettrica prodotta dalle rinnovabili nei momenti in cui non c'è la domanda. Cioè il gas naturale, e lo ha sottolineato proprio l'AIEA nel World Energy Outlook che è uscito ieri, è la fonte energetica che crescerà di più, che crescerà di più nel mondo, perché nei paesi dove c'è molto inquinamento si passa dal carbone al gas, e crescerà perché non solo c'è grande disponibilità, ma c'è anche la possibilità di fare una fonte autenticamente rinnovabile. Quindi non è, come si diceva fino a poco tempo fa, una fonte che ci permetterà di fare la transizione alla rinnovabile, è una fonte destinata ad essere centrale nel mix energetico che dovrà assicurare l'energia che serve ai paesi emergenti a sconfiggere la povertà energetica che ancora colpisce purtroppo più di 1 miliardo di persone nel mondo, ma anche a far crescere meglio l'Europa e raggiungere quegli obiettivi di difesa del clima, certo, che l'Europa si è data. Grazie Daniela Viglione anche di questa prospettiva, diciamo, fiduciosa in un futuro che possiamo dominare, in cui l'energia non sarà un problema, ce ne ha creati tanti l'energia negli anni passati, anche a livello di costi, in cui può essere una grande opportunità anche nella prospettiva appunto di dare un ambiente più sano, più sicuro ai nostri figli e ai nostri nipoti. Abbiamo parlato del libro Resource, il gas naturale nel futuro dell'energia, edito da Rizzoli per conto della SNAM, può essere richiesto attraverso il sito della SNAM. Grazie a Daniela Viglione che ha curato questo libro insieme a Paolo Mieri, grazie anche a Valeria Bernardi in regia, a Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina è per domenica prossima.